La vita in un film di Franco D'Assisi. La parete più importante del Bar Margherita era quella delle fotografie. Ogni anno i fenomeni del Bar Margherita si facevano una foto di gruppo. La foto più bella fu quella del 54, l'anno in cui ci furono solo fenomeni che tutta Bologna ci invidiava. Però io in quella fotografia non ci sono. Erano così gli amici del Bar Margherita nella Bologna degli anni 50 del film omonimo di Pupi Avati. Un saluto da Franco D'Assisi, bentrovati a questo nuovo programma di Radio 24 che si intitola appunto, come avete sentito, La vita in un film. Staremo insieme per 5 settimane, tutto agosto praticamente, proprio per chiacchierare con voi di tutti quei film in cui abbiamo rivisto un pezzo del nostro percorso, un personaggio, una situazione simile a qualcuno che abbiamo conosciuto, a qualcosa che abbiamo vissuto, insomma qualcosa in cui ci siamo identificati in celluloide. Ogni giorno quindi un tema incarnato da un film emblematico di una situazione, di un sentimento, di un'emozione e in cui abbiamo potuto immedesimarci. E vi chiederemo proprio di dirci qual è il vostro film della vita su questo argomento. Ogni giorno premi per i primi 3 ascoltatori che verranno chiamati a intervenire, che interverranno con noi in trasmissione, i premi più amati da chi ama il cinema. Tanti biglietti da usare nelle sale di tutta Italia, ben 2200 cinema in tutta Italia, per vedere i vostri film preferiti in compagnia di chi volete. Allora ecco subito i nostri numeri: il telefono 800 24 00 24, il numero per inviare sms 349 238 6666. Utilizzateli sin da ora per dirci in quale film vi siete immedesimati, avete visto parte delle vostre amicizie. Sì, perché entrando nel vivo di questa nostra prima puntata, il tema della prima puntata appunto della nostra trasmissione è proprio l'amicizia. Un certo tipo di amicizia, se vogliamo, l'amicizia è un tema troppo vasto per essere trattato in così breve tempo, l'amicizia tra uomini, adulti, che sembra essere stato, proprio come nel Bar Margherita, uno dei filoni trainanti della stagione cinematografica che si è appena conclusa. E non potevamo che chiamare, come ospite che sarà qui con noi in questa mezz'ora, il massimo cantore nazionale dell'amicizia al cinema, ovvero Pupi Avati. Come dicevamo, gli amici del Bar Margherita ci ha raccontato un'amicizia anni 50, un po' ingenua, spaccona, virile, una amicizia col petto in fuori, potremmo dirle, le avventure di questo diciottenne che è un po' l'alter ego dell'Avati giovane, che sogna di poter frequentare questo bar dove agiscono i guasconi Al, il capo, Diego Abbatantuono, Beppe, che non si toglie mai i guanti da guida, perché il padre gli ha promesso una Porsche ma nel frattempo gli ha regalato solo i guanti, e poi ancora Gian che vuole andare al Festival di Sanremo. Insomma, una fauna variegata che racconta l'amicizia in un tempo in cui non si andava troppo per il sottile, non si temeva certo di ferire l'amico, anzi tutto era molto spontaneo ai limiti del crudele, ma sicuramente più vero. E allora, proprio in questo senso, attendendo le vostre chiamate all'800 24 00 24 per parlare di amicizia nel film e dei film in cui avete rivisto parte delle vostre amicizie, ascoltiamo un'altra clip degli amici del Bar Margherita. Chiamatemi Walter oppure Walterino se volete, ma no Water. Allora, 3 Campari, Walterino. Una delle regole che componevano il decalogo del Bar Margherita prevedeva che se uno dei frequentatori del bar si prometteva in sposo, bisognava far saltare immediatamente il matrimonio. Le donne erano sì l'oggetto del desiderio fino a quando erano state conquistate, poi se diventavano presenti erano un reale fastidio. È quello che fanno gli amici proprio con Bepp, che sta per inguaiarsi e si vede arrivare un'angelica e facile ragazza ingaggiata dagli amici del bar. Sentiamo uno stralcio del dialogo fra Al, che è appunto Diego Abbatantuono, Antuono, e Bepp, Neri Marco Re. Allora? Come mai siete qua? Sono venuto a farmi ringraziare da te. Ringraziare cosa? Perché nel mio piccolo siamo riusciti a salvarti da quel matrimonio. Tu ormai non riuscivi più da solo. Così è andato tutto a monte e tu sei libero, no? Marcella? Lascia stare Marcella. Non lascia stare Marcella. Lo vuoi sapere? Cosa? Chi è veramente Marcella? Chi è? Chi è veramente Marcella? Insomma, lo scoprirà il nostro Beppe. C'è la prima ascoltatrice o ascoltatore anzi non ancora, mi dicono non ancora, di andare piano che c'è un attimo da aspettare, ma qualcuno ci sta chiamando. Ricordo il numero 800 24 00 24, e se volete invece mandare sms 349 238 6666. Allora io approfitto per farvi ascoltare intanto la prima dichiarazione che abbiamo raccolto da Pupi Avati, che per questo suo film, che non è ovviamente il primo film in cui Avati tratta il tema dell'amicizia, in passato ricorderete una gita scolastica, festa di laurea, ma ancora più recentemente Quando arrivano le ragazze, insomma è stato un tema che è stato presente un po' in tutta la cinematografia del grande regista emiliano. Però dicevo, in questo suo Amici del Bar Margherita Avati ha scelto un'ambientazione del passato. Il passato è un altro dei temi molto presenti in Avati, quasi come se oggi non si potesse più raccontare quel sentimento in quel modo. È così, Pupi Avati? Mi permetto di obiettare, c'è un film che riguarda, sono dei film miei che riguardano l'amicizia, che sono Regalo di Natale, Rivincere di Natale, che anche se la raccontano, la testimoniano nel senso, nei suoi aspetti più negativi, peccabili, insomma, di amicizia si occupano. Io non credo che oggi non sia possibile essere amici. Io credo che una persona della mia età non trova più nell'amicizia quel tipo di risposta, di urgenza all'interlocuzione, alla comunicazione, che invece avvertiva quando era ragazzo. L'amicizia è un sentimento molto forte, a patto che somiglia all'amore, che sia sovrapponibile all'amore, cioè che sia dettata da degli impulsi, da degli stimoli che non abbiano niente a che fare con la ragionevolezza, con i conti. Oggi quelli che io considero i miei amici di oggi non sono in realtà miei amici, sono i miei colleghi di lavoro. Io spartisco le mie giornate, il mio tempo con delle persone che condividono il mio lavoro, che mi stanno vicino perché fanno lo stesso lavoro che faccio io, con le quali io faccio i miei film. Ma l'amicizia straordinaria, bella, luminescente, solare, dell'infanzia, inspiegabile, per cui quel ragazzino lì era il tuo amico del cuore, nei riguardi del quale tu vivevi tutti i sentimenti che si provano per l'amore, cioè la gelosia, il senso del possesso, la vicinanza fisica, tutte queste cose, e nei riguardi della quale, se ti avessero chiesto ma perché quello lì, proprio quello lì è il tuo amico del cuore, e tu non sapevi rispondere, ecco, in quel caso, in quella circostanza, proprio perché non c'era nessuna ragione per la quale lui era il tuo amico, ecco, allora era un collante, un modo di essere vicini, un sentimento unico e ripetibile, che ha a che fare solo con una stagione della vita. Dopo, ahimè, purtroppo subentrano quelle che sono le finalità del tuo tempo, della tua giornata. Tutto deve essere finalizzato ad un risultato. Quando sei ragazzo, sostanzialmente, il tempo può essere dissipato, e questo ti permette appunto allora di vivere correttamente l'amicizia come deve essere vissuta. Alla mia età non è più possibile. Devo obiettare, c'è un film che riguarda solo la vita in un film. La vita in un film, l'amicizia è il primo tema della nostra nuova trasmissione che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto, ogni giorno a quest'ora. Oggi parliamo di amicizia e abbiamo in linea alcuni ascoltatori. Cominciamo con Pietro da Milano, che saluto. Ciao Pietro. Buonasera, ciao. Allora, tu hai scelto, se non sbaglio, Marrakesh Express come sì. film che simboleggia l'amicizia. Cosa hai rivisto della tua esperienza dentro quel film? Beh, diciamo intanto che per me rappresenta una sorta di manifesto, nel senso che io ad oggi guardo quel film sistematicamente una volta al mese, per cui è una pellicola ormai quasi consumata. Per me rappresenta, vista la mia età, comunque una fase di cambio generazionale, laddove si parla di alcuni aspetti legati per esempio alle lotte scolastiche o comunque a quello che è stato un po' che sono stati un po' gli anni 70. E poi sicuramente una cosa molto bella legata alle mie esperienze e quindi legata all'amicizia, cioè il viaggiare, l'intraprendere un'avventura di viaggio insieme a delle persone e in questa avventura tirare fuori tutti i propri pregi e i propri difetti. Pietro, sai che tu sei una persona fortunata perché, come Gastone quando entra nel negozio come milionesimo cliente, hai vinto un cofanetto regalo Wazoo per 5 serate di grandi cinema? Grazie. Ecco, come primo ascoltatore ad aver partecipato alla nostra trasmissione, alla vita in un film, ogni giorno, lo ha detto, il primo ascoltatore che sentiamo vince questi 5 biglietti da spendere in 2200 sale, quindi insomma c'è un bel imbarazzo della scelta, ma c'è materiale anche per il secondo e per il terzo, quindi salutiamo Pietro e andiamo da Iari, dalla provincia di Firenze, penso e spero di aver pronunciato bene il tuo nome. Allora Iari, qual è il film in cui hai visto parte della tua, del tuo rapporto con il tema dell'amicizia? Buonasera a tutti e grazie di avermi contattato. Il tema che praticamente mi ricorda un'epoca adolescenziale dei miei 12 anni è I Guerrieri della Notte, dove praticamente noi in quel film abbiamo ripreso l'idea di ricreare la banda, non diciamo per fare scorribande come succede veramente nel film, ma per creare l'unità della compagnia, per dare, ecco, l'unione fa la forza, che in quell'epoca di età, ecco, aiuta a crescere, praticamente stando insieme in molte persone, in molti amici, ti dà la forza per affrontare, diciamo, problemi tutti i giorni. Ecco, una forza che quindi tu dici si trova anche appunto da questa unione che nasce anche in climi non particolarmente leggeri come in questo film, no? Sì, esatto, cioè, il film è stato l'idea, lo spunto di creare la banda, tra virgolette, nel senso compagnia, per stare uniti, per darsi una mano tra amici coetanei, per affrontare vari problemi, sia familiari che di amicizie, dell'amico geloso, del cattivello a scuola che ti dà noi, ecco. Certo, certo, insomma i Warriors eravate voi alla fine. Questa, sì, vabbè, questa era la... fatti i giubbottini, di jeans senza le manine tagliate. Speriamo senza le mazze da baseball soprattutto, ecco, in questo momento. No, al limite, ecco, con i gessi per scrivere in terra il nome della nostra banda, i nostri nomi, e fare dei disegni in terra sul cemento, ogni gesto. Grazie Iari, anche tu riceverai due biglietti per andare al cinema con chi vuoi a vedere un film, insomma, quindi buon cinema anche per te. E a questo punto, prima di passare al prossimo ascoltatore che è già in linea, voglio farvi ascoltare un altro pezzo dell'intervista a Pupi Avati, perché abbiamo chiesto a Pupi Avati come queste sue amicizie, che erano tutte amicizie di persona, di contatto, persone che si vedevano, si sentivano, stavano insieme gran parte della giornata, possa essere raccontata oggi, nell'epoca dell'amicizia virtuale, dell'amicizia che ci si scambia con i telefonini, con gli sms, con Facebook, per esempio. Si può ancora parlare di un'amicizia come quella raccontata nei film di Avati? Sentiamo il regista. Ma io non le trovo così disdicevoli. Cioè lo strumento, il modo, la maniera attraverso la quale si condividono, si affronta la vita, si condividono i sogni, ci si confida, ci si apre come accadeva a me e ai miei amici. Ecco, io lo strumento, che sia poi una tastiera di un computer piuttosto che un telefono o quant'altro, io non trovo che sia lì il problema. Il problema è se francamente riusciamo ancora ad avvertire la necessità, l'urgenza di dirci con il candore, l'innocenza, fidandoci degli altri, ecco, confidando nell'altro, senza pregiudizi, senza travestimenti, senza infingimenti. Io penso che sia così. Io che frequento molti ragazzi, perché vado a fare un'infinità di incontri, parlando del mio mestiere, cercando di tenere vivo in loro il sogno di dire chi sono individualmente, non nella collettività, ma individualmente, io l'avverto questa loro necessità, e quando queste tematiche appunto li interessano così tanto, li coinvolgono così tanto, ecco, l'aprirsi, fidandosi dell'altro, confidando nel prossimo, ecco, secondo me è tuttora praticabile. Poi che avvenga attraverso degli strumenti diversi da quelli che utilizziamo noi mi scandalizza molto poco. E allora Pupi Avati, quindi moderno anche nel vivere la possibilità di raccontare l'amicizia anche con i mezzi di oggi. Un altro ascoltatore all'800 24 00 24, per raccontarci in quale film sull'amicizia si è rivisto, Angelo dalla provincia di Latina. Buona serata Angelo. Ciao, buonasera Franco, eccomi. Eccoti qua. Allora, tu hai scelto Compagni di scuola di Verdone. Beh, insomma, lì c'è dentro un pezzo davvero di tutti noi, eh? Eh sì, gli ex liceali, specialmente chi ha fatto il liceo classico, si ritrova con lui, magari gli amici di scuola li vede nei personaggi del film. ce n'erano tanti. Io ho rivisto la psicologa, ad esempio, quell'attrice toscana, adesso mi sfugge il nome, e se devo essere sincero, il mio ruolo lo vedo in quello di Christian De Sica, che era era un cantante che purtroppo non aveva fatto successo. Allora, due biglietti per andare al cinema anche per Angelo dalla provincia di Latina. C'è Gianluca dalla vicina provincia di Frosinone, che invece mi fa abbastanza sorridere la cosa, dice che la sua amicizia del cuore è quella di Madagascar, quindi di un film d'animazione. Gianluca? Sì, diciamo, trovo fantastico come gli autori, insomma, a un certo punto riescano a mettere insieme un sentimento di amicizia così forte. Non so se conoscete il film di cui parlo, tra i quattro animali che erano rinchiusi allo zoo e quindi per casualmente si ritrovano, diciamo, in Africa. E l'istinto animale che emerge, perché lui, Alex, il leone, a un certo punto in Africa, lui che è abituato a ricevere bistecche dallo zoo, si trova ad avere fame e gli viene l'istinto di azzannare la sua amica zebra. E allora è fantastico come tutto il gruppo cerca in realtà poi di far capire ad Alex che lui può mangiare anche il pesce, in fin dei conti, che non è necessario mangiare. E allora niente, trovo che questi due sentimenti, questi due elementi così forti di amicizia e di istinto animale vengano messi insieme, sviscerati in un cartone animato per i bambini. Insomma, questo lo trovo veramente meraviglioso. Beh, Gianluca, direi che è bello anche rivedere l'amicizia dentro un film d'animazione, perché poi sono personaggi che attingono pienamente a quello che siamo. Insomma, gli animatori, i creatori di questi film ormai mettono forse più realismo dentro queste figure, questi caratteri, che non tante volte in caratteri in carne e ossa, che però non sono poi esattamente come quelli che vediamo in mezzo alla strada. Allora ci si può rivedere anche in un cartone animato. E allora vi ricordo il nostro numero di telefono ancora, 800 24 00 24. C'è un sms che è arrivato nel frattempo al 349 238 6666 di una nostra ascoltatrice, Anna, che dice: l'amicizia non è solo tra uomini. È vero, infatti noi dedicheremo nei prossimi giorni, ovviamente avremo il tempo di farlo, anche una puntata all'amicizia al femminile. Abbiamo cominciato da qui, ma ovviamente l'amicizia, come ripeto, potrebbe essere sfaccettata in tantissime possibilità. E allora, dice Anna, l'amicizia non è solo tra uomini. Thelma e Louise hanno scoperto attraverso l'amicizia la loro libertà, purtroppo finita male. Certo, è stata una libertà pagata cara, ma è stata anche una scelta, quella di Thelma e Louise, nello straordinario film di Ridley Scott. Parleremo di amicizia al femminile nel corso della nostra trasmissione. Noi continuiamo a sentire invece Pupi Avati, dicevamo, un cantore dell'amicizia, però abbiamo voluto chiedere anche a Pupi Avati qual è il suo film della vita, cioè dove lui si è rivisto. A questo punto non necessariamente in un film sull'amicizia. Sentiamo cosa ci ha risposto. C'è un film su tutti che ho rivisto 3 sere fa, alla fine piangendo, l'avrò visto 100 volte, sono 8 e mezzo di Fellini. È il più bel film sul cinema che si sia mai potuto fare e che mai si possa fare. Ed è un film anche sulla vita e sulla creatività. È un film che parla così grande, così generoso e così anche imbarazzante, per cui ecco, quello è il film veramente della mia vita. Pupi Avati quindi si è identificato in 8 e mezzo di Fellini. Noi abbiamo un'altra ascoltatrice in linea, Concetta da Torino. Buona serata, Concetta. Buonasera a tutti, anche a voi. Il film della tua amicizia qual è? Il film della mia amicizia è il bellissimo Thelma & Louise, anche se è un epilogo così forte. Comunque io penso, cioè, non è che mi identifichi con i due personaggi. Beh, meno male. No, meno male, anche se quello che esprimono è molto molto ovviamente forte. Ovviamente molto forte, certo. Certo, perlomeno per quello che mi riguarda. E per me l'amicizia è proprio questo, cioè nel senso di crescere assieme, di capire quali sono le aspettative l'una dell'altra, anche se Thelma aveva già conquistato la sua libertà, la sua autonomia, eccetera, è vero, l'altra la conquista piano piano attraverso l'amicizia e la porta ad assaporare delle cose magnifiche proprio in base alla sua così assaporata libertà. Quindi è molto bello, anche se, come ha detto Pupi Avati, io questa la mia età, anche se ho 67 anni, non sono né giovane né vecchia, però non parlerei più di amicizia da un po' di tempo. Hai delle conoscenze approfondite, ti trovi bene, vai al cinema insieme, al teatro, eccetera, però non provi più quei sentimenti così belli, non forti, proprio belli, che ti aiutano, no? Beh, però forse, Forse Concetta, può darsi che anche l'asticella dell'età si sia alzata un pochino, perché una volta si poteva essere amici di quell'amicizia pura che tu racconti fino ai 20-25 anni, oggi forse anche perché si cresce di meno, in un certo senso questo traguardo si è spostato un po' più in là, non trovi? Vero, io penso così, anche se uno così ci crea anche delle aspettative a quest'età, ma anche prima, non solo adesso, no? Però sussistono tanti altri fattori di abbandono ad altre cose, non dico curiosità, comunque non c'è più la vivacità, ecco, di intraprendere, perché poi l'amicizia è questa, è movimento, è mettersi in discussione, provare delle cose forti che ti aiutano veramente a dire, beh, veramente ci sono ancora, ecco, perlomeno questa è la mia idea dell'amicizia. Grazie a Concetta da Torino, grazie a Concetta da Torino, siamo quasi in chiusura, però io prima voglio farvi ascoltare una piccola clip tratta da un altro film uscito quest'anno, anche questo, tutto incentrato su un'amicizia al maschile, L'ospite inatteso, sentiamo. So che sei un uomo molto intelligente, ma col tamburo devi ricordarti di non pensare. Pensare incasina tutto, chiaro? Chiaro. Da un paio di colpi. Non così forte, non ce l'hai con lui. Va bene, mi dispiace. Ok. Meglio. Hai pensato? No. Bene. Un'altra cosa, Walter. Nella musica classica tu pensi in quattro tempi. Uno, due, tre, quattro. Da, da, da, da. Questo è un tamburo africano, quindi dovrai suonare in tre tempi. Tac, tac, tac. Dimentica la musica classica. Lasciala perdere. Tac, tac, tac. E quindi su questo tac, tac, tac, quindi l'invito a pensare anche con la mente e la testa di un'altra cultura fra questo professore universitario anziano demotivato e questo giovane extracomunitario che si incontrano in America e ne nasce appunto una grande amicizia. Appuntamento a domani con La vita in un film. Parleremo di quello che siamo sul mondo del lavoro, come ci trasformiamo in ufficio, che maschera indossiamo. Sarà con noi Paolo Villaggio, la maschera per eccellenza in questo senso, con il suo Fantozzi. A domani.